Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete pronti a farvi contagiare dalla couponing mania? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Sulla scia di una nuova trasmissione TV parliamo di un fenomeno made in USA che svela le tecniche di risparmio più folli, ma che può anche insegnarci qualcosa. È il tema del primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Di consumi e classifiche invece parleremo nella seconda parte, dedicata come sempre al focus sui trend quando liste e recensioni fanno tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità di questa settimana. Gli italiani nel 2011 hanno speso più per acquistare acqua minerale che vino. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, secondo cui l'acquisto dell'acqua minerale con 19 euro al mese per famiglia è diventato la prima voce di spesa del bilancio familiare per le bevande. Uno spot per sensibilizzare i più giovani a donare il sangue. È il concorso indetto dal Centro Nazionale Sangue e da Pubblicità Progresso, in vista della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, il 14 giugno. Il concorso è riservato ai giovani tra i 18 e i 28 anni, invitati a realizzare un video che spazi tra corti, comics, tube games, brani musicali, azioni di guerriglia o ambient marketing. Appello delle associazioni dei consumatori aderenti a Casper, Comitato contro le speculazioni e per il risparmio, per un dietro front sull'annunciato aumento dell'IVA previsto per ottobre. Si tratterebbe, spiegano le associazioni, di un aggravio di spesa pari a 418 euro annui a famiglia, solo di effetti diretti, senza considerare gli arrotondamenti dei prezzi e i fenomeni speculativi. Arriva il pub ad alcol zero. Si stanno diffondendo in Inghilterra i cosiddetti dry bar, caffè e pub che offrono solo bevande analcoliche. La camicia torna a fare tendenza nel guardaroba femminile. Accantonata nei cassetti per qualche stagione, il capo unisex, che ha avuto la sua massima fortuna negli anni Ottanta, si prende la sua rivincita. I giapponesi girano con 12 carte di pagamento nel portafogli, i coreani con 6, al pari degli americani, mentre gli italiani ne hanno in media 1,5 a testa. Un'analisi di CPP Italia rileva come le carte di pagamento esplodano nelle economie emergenti e arretrino nei paesi occidentali in difficoltà. La borsa della spesa. Carrelli strapieni. Svuotiamo lo scaffale. Tutto ottenuto a prezzi incredibili. Anche questi li ho presi tutti gratis. $530 di sconto, è il 98% della spesa. L'undicesimo comandamento è non pagare il prezzo pieno. Ho i buoni per queste. Dici che ci bastano le 40 scatole che abbiamo a casa? Sono pronte a tutto pur di risparmiare. Ho chiesto al direttore una lista in ordine alfabetico di tutti gli articoli venduti nel supermercato con il rispettivo scaffale. Controllo ogni volta le regole sui buoni, perché potrebbero aver cambiato qualcosa. Era Pazzi per la spesa, nuovo programma in onda su Real Time che racconta di un fenomeno molto diffuso in America, il couponing, la raccolta di coupon, cioè di buoni in sconto per risparmiare sulla spesa. Un fenomeno che quando arriva ai limiti del maniacale si chiama extreme couponing. Come raccontano le storie delle protagoniste, la raccolta di buoni in sconto, tagliandi offerte speciali, può diventare una vera e propria mania. C'è chi arriva addirittura a ispezionare la spazzatura pubblica in cerca di coupon gettati via. Storie anche frutto dei tempi che stiamo attraversando, ci dice Antonella Del Rico, a capo dei canali Discovery e Real Time. Ci sono per esempio casi appunto in cui queste signore si battono per ottenere il maggior numero di coupon che poi non riescono nemmeno a usare, oppure che devono utilizzare per spese che alla fine costerebbero di più di quanto hanno risparmiato. Sono in qualche modo dei fenomeni sociali, anche dei fenomeni psicologici in qualche maniera, che sono sempre interessanti da vedere, divertenti anche, ma che hanno comunque un angolo di riflessione. Ti dà uno spaccato

per farla innamorare. Tuo padre è qui per insegnartele. No. Regola numero uno: il cacciatore deve conoscere la sua preda. Era 10 regole per fare innamorare commedia giovanile nelle sale in questi giorni. Ci è servita ad introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana, che ha a che fare appunto con quella che è diventata ormai una vera e propria mania, quella di compilare elenchi fatti di regole, come in questo caso, ma anche di appunti, consigli, giudizi. Cosa abbia a che fare tutto questo con il mondo dei consumi lo capiremo come sempre con l'aiuto della nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Liste e classifiche, inutile negarcelo, sono due delle ossessioni dei nostri tempi. Liste e classifiche alimentate dai giudizi, dalle recensioni, dalle raccomandazioni dei cittadini consumatori che grazie al web circolano ormai liberamente su qualunque argomento, dai viaggi dove a fare scuola è TripAdvisor, tra i siti più letti al mondo, agli ospedali. E tutto il mondo dei consumi, negozi, marketing, pubblicità si adegua. Patrizia. Sì, le classifiche hanno molto a che fare con il mondo dei consumi. Oggi i consumatori, che sono sempre connessi, hanno un grande vantaggio, cioè internet, che è bidirezionale, cioè lo posso usare prima direzione come fonte informativa, quindi in modalità 1.0, lo posso usare come punto di vendita e quindi fare acquisti, e posso, ecco la seconda direzione, commentare tutto quello che faccio scrivendo su blog, social network, condividere, eccetera. Si parla non a caso di era delle recensioni di massa. I pubblici sono produttivi in molti sensi, offrono cioè alle aziende e a tutti gli altri creatività, produzione e commenti. Appunto, le persone fanno recensioni, dicono cosa vogliono, sono molto informate, esperte, dicono quanto sono soddisfatte entrando in dettagli di prodotti e servizi acquistati e fruiti. TripAdvisor, lo citavi, è un caso notissimo di aggregatore di recensioni degli utenti che sono clienti e fruitori di servizi per lo più turistici, alberghieri, che elogiano e stroncano per esempio un hotel, consigliano o sconsigliano una destinazione con dovizia di particolari, dai fondi scrostati di vasche da bagno dettagliatamente descritte a menù sublimi di ristoranti dove si mangiano petali di fiori edibili. Dunque i commenti generano classifiche, questo è il punto, e questa è la logica su cui si basano appunto tutti i siti che usano i voti degli utenti per classificare i servizi valutati in base al grado di soddisfazione che viene espresso pubblicamente. Stanno anche nascendo siti di recensioni e classifiche che usano le stesse logiche dei social network, come Dinevor, tutto dedicato ai ristoranti, appunto non solo valutati ma anche geolocalizzati e mappati dagli utenti. Il punto da sottolineare è che accanto alle fonti informative classiche, dunque pubblicità, agenzie viaggi, amici, campagne di comunicazione, si aggiungono i siti di recensioni che stanno dimostrando tutta la loro influenza, la loro potenza sulle scelte degli stessi servizi e prodotti recensiti per altri potenziali clienti. Le classifiche dal basso sono influenti perché diventano una bussola autorevole, la cui autorevolezza è proprio il filtro esperienziale di chi li ha già provati e ha contribuito a stilarle. Ci sono naturalmente classifiche su tutto, sui migliori speaker per eventi pubblici, sulle migliori pagine numero 99 dei manoscritti di aspiranti scrittori valutati dai lettori, questo si trova sulla omonimo blog Page 99, o classifiche socialmente responsabili come la lista nera degli alberghi ucraini stilata dalla Commissione per il Turismo, visto che in occasione dell'imminente campionato di calcio Euro 2012 gli hotel ucraini stanno aumentando i prezzi fino a 10 volte la tariffa abituale. E c'è il capitolo interessante, semiserio, dei vademecum, delle cose da fare e da non fare su qualsiasi argomento, a conferma della produttività a volte ipertrofica delle persone e della loro familiarità con le tecnologie per farlo. Un esempio è www.ihatemilano.com, le 101 cose da non fare a Milano, blog che fa il verso alla collana di guide turistiche alle città italiane dal titolo appunto 101 cose da fare. Liste e classifiche, espediente narrativo efficace, attraversano anche molti film e molti libri, da Alta fedeltà a Kill Bill, da Caos calmo a Non è mai troppo tardi, fino al romanzo, poi pellicola cult, che ha per protagonista una certa Bridget Jones. Decisione numero uno. Oh, Ovviamente perdere 10 kg. Numero 2. Mettere sempre a lavare le mutande della sera prima, ugualmente importante. Trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire, evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali o pervertiti. E soprattutto non fantasticare su una particolare persona che incarna tutti questi aspetti. I've been traveling a hard road. 9 novembre, peso 69 kg, sigarette 3, compleanno 33. Patrizia, finché si tratta di viaggi, di cibo e di prodotti, nessun problema. Quando i giudizi e le classifiche si applicano alla sanità, tanto per citare un ambito in cui la discussione è molto accesa, arrivano i problemi. Sì, certo, perché i criteri di valutazione sono appunto una variabile critica di questo fenomeno. Valutare, sappiamo, etimologicamente significa attribuire valore in senso positivo o negativo. Questa attribuzione non solo è soggettiva, ma si basa su due parametri fondamentali: la soddisfazione, ma anche l'importanza. Esempio, non posso essere molto soddisfatto di avere una scelta di 10 cuscini diversi in una stanza d'albergo se dormo senza cuscino e dunque non mi importa di quella extra qualità messami a disposizione. Ibidem per il cibo. La valutazione di un menù di un ristorante si basa su molte variabili diverse: preferenze, gusti, idiosincrasie, conoscenze, storia personale, importanza attribuita a pietanze o vini di chi valuta. E passando da questo tipo di prodotti ai servizi e in particolare in ambito sanitario, la cosa si complica proprio perché la valutazione riguarda una figura professionale e le dimensioni immateriali della sua competenza, quindi va oltre la prestazione. Dunque valuto il medico sì per l'esito della cura, ma anche per la sua empatia, distacco, capacità di farsi capire, insomma valuto la persona in base ad alcune caratteristiche per me importanti. In America in effetti le recensioni dei pazienti sui medici e sulle strutture ospedaliere sono una prassi consolidata. In Italia si comincia ora e appunto il dibattito è quantomeno controverso intorno a un'unica domanda: si può valutare un medico senza avere le sue competenze? Il caso a cui ci riferiamo è il portale italiano qsalute.it della Q Network SAS, collegato a Facebook e a Twitter, che proprio come TripAdvisor pubblica recensioni su spiagge, villaggi, ristoranti, viaggi, moda, libri e scuola, e ha introdotto la categoria salute. Dunque case di cura, medici, farmaci. Si trovano indicazioni su ospedali da evitare o da considerare con un punteggio che va da 0 a 5, si esprime un'opinione e si vota competenza, assistenza, pulizia e servizi degli ospedali italiani delle varie regioni. Si può anche dialogare con altri pazienti e scambiare dati sulle proprie patologie. Lasciamo la sanità, passiamo al retail. Caso paradigmatico in questo ambito: l'uso delle classifiche dei prodotti preferiti dalle persone come criterio di selezione dell'offerta del negozio. Stiamo parlando di Ranking Ranquin. Tokyo è una catena di negozi appunto giapponese che basa proprio l'assortimento sulla classifica dei prodotti preferiti e più venduti o più votati dai consumatori, ognuno nella sua categoria merceologica. I dati di vendita arrivano dai grandi department store di Tokyo o anche da ricerche indipendenti. Tutte le categorie sono rappresentate, dai sughi in scatola ai cellulari, e le classifiche di gradimento vengono aggiornate ogni settimana, quindi cambia anche la vetrina ogni settimana. Gli oggetti che non rientrano più tra i primi 5 o 10 vengono immediatamente sostituiti, e l'idea di base di questo concept di retail è molto interessante proprio perché rappresenta un'evidenza fisica di questo approccio partecipativo al consumo. Che le recensioni degli utenti abbiano un valore anche economico per le aziende, dimostrato dal proliferare, per così dire, di negozi tester, es lo ultimo in Spagna o Sample Lab, Trivertising in Giappone sono esempi molto interessanti degli ultimi anni. Ora in Europa ha aperto Sample Central a Budapest. Sono quei negozi in cui non si entra per comprare, ma ci si abbona e si va per scegliere 4-5 prodotti al mese, a seconda della formula, non ancora sul mercato, da provare trovare in cambio di una recensione. E online, esempio interessante, birchbox.com, un negozio che punta in maniera simile sulla fase di test del prodotto, abbinato però all'idea di sorpresa periodica. Dunque ci si iscrive, ci si abbona, arriva una scatola con contenuti preselezionati dal sito e non dall'utente, l'abbonamento mensile di $10 o annuale 110, c'è un sistema di punti poi per acquistare i prodotti preferiti con degli sconti, quindi di nuovo una formula di recensioni esperte premiate in cambio di un test. Dato che circa il 90% dei nuovi prodotti che arrivano sul mercato scompaiono di lì a poco dagli scaffali dei negozi, utilizzare questo sapere e questa disposizione, nuova attitudine delle persone a dire che cosa pensano e quanto sono soddisfatti è molto utile per allungare la loro vita. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo negli Stati Uniti su consumi, classifiche e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Neighborwise.com è un sito che offre la classifica aggiornata in tempo reale dei quartieri delle città americane. L'idea nasce per fornire informazioni dettagliate a chiunque si trasferisca in una nuova città e abbia bisogno di scegliere dove vivere o a chi è semplicemente in visita per un periodo limitato di tempo. Il sito incrocia una serie di dati, recensioni e review fatte e caricate dagli stessi abitanti, utilizzando 65 indicatori chiave che vanno dal grado di appetibilità ai livelli di rumore, alla idoneità per le famiglie, alla sicurezza. Come funziona quindi? Ricercando sul sito la zona a cui si è interessati, in base agli indicatori considerati più rilevanti, in base alle preferenze, uno speciale algoritmo genera una mappa dei quartieri che rispondono alle caratteristiche richieste. A questo punto si può ulteriormente zoomare sul singolo quartiere e accedere a informazioni più dettagliate, come un tour fotografico con immagini caricate dagli utenti, notizie sulle scuole, sulla reputazione locale, sul valore degli affitti. Il sito è attivo nelle principali città, New York, San Francisco, Boston, Chicago, ma mira a classificare tutti gli 80.000 e oltre quartieri degli Stati Uniti. Grazie Alessia, sicuramente un'idea anche per le nostre città. Patrizia, è una strada senza ritorno questa delle classifiche, delle recensioni, dei giudizi? Irreversibile senza dubbio. Oggi si parla di consumer to business come nuovo modello di business rovesciato, cioè sposta l'accento dall'azienda, dal brand, dall'advertising sugli individui come produttori, fornitori di valore per le aziende e non più solo come consumatori finali. È una forma di baratto tra merci e sapere collettivo. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, sezione podcast, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.